Wall Street, I viaggi del lupo. Ebbene sì, oggi venerdì 12 maggio siamo tornati in onda con un'altra puntata di Wolf Trips. Questa sera abbiamo anche qualche ospite al microfono. Intanto arrivano anche gli ospiti qua dalle spalle. Stasera non abbiamo la webcam e vabbè, pazienza, ne faremo a meno, ce ne faremo una ragione. E la puntata di stasera parte molto tranquilla con un brano soul elettronico e lui è Sampa, nome Sampa Sisei, ed è di Londra. Andiamo ad ascoltarlo col brano Close But Not Quite. You fall into arms that were, and only the size of your breath hurt. I'm not one to go, church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. Don't have to words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't, because I can't speak. I've tried to become close, but not quite. To recite, they come close but not quite. All these words that I try to recite, they come close but not quite. All these words that I try to recite, they come close, but not quite. I'm so misunderstood. I'm so misunderstood. I'm so misunderstood. I'm so misunderstood. Oh. Yeah, I guess your eyes said enough. I guess your sighs said enough. But all of these words, they can't express pain. They can't express pain. They can't express pain. 'Cause they're just words. No, they don't express this pain. E stasera abbiamo iniziato con questo brano soul jazz. Lui è Sampa. Questo è l'album Process di quest'anno, del 2017. L'etichetta per il quale ha lavorato e ha stampato l'album si chiama Young Turks. Stasera abbiamo anche al microfono Sara Biancardi. Lei è una blogger di successo e lei scrive per il blog Bioma Terra. Perfetto, perfetto. Di che cos'è che parla? Dici un po', va. Parla un po' di tutto quello che riguarda la scienza, la natura più che altro, sì, no? Sì, esatto, esatto. Quindi anche un po' il preservare la natura. Esatto, esatto. Conservare, preservare. Va bene, va bene. Ti è piaciuta la canzone di prima? Sì, sì. Beh, tranquilla, dai, siamo molto partiti belli e tranquilli. Inizio. Adesso andiamo ad ascoltare invece Jacob Banks con il brano Chainsmoking, che abbiamo già ascoltato bella, mille bella, volte, bella, che bella, mai bella, detto. Sì. Però ci sta, andiamo ad ascoltarcelo. Mm. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. And the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this crazy love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Cherry smoke in your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Change smoking your love. Change smoking your love. Change smoking your love. Change smoking your love. We watched the water rise and waiting by the shore. Take me. Floor. You say we're meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Oh, oh, oh, oh, oh, la, la. E lui era Jacob Banks con il brano Chainsmoking. E mi dicevi che ti piaceva molto, giusto? Sì, sì. Dai, dopo te la passo questo brano qua. Grazie. Un po' come si faceva una volta con le cassettine. Tu non conosci. No. Però si passava i brani sulle cassettine. Lui è nigeriano, penso un po'. E niente, produce dal 2013 e lavora con l'etichetta Interscope. Ora andiamo ad ascoltare invece un brano nuovo per Wolf Trips, quindi un brano che non ho messo fino adesso, non come questo qui. E il brano è di Odessa, non so come si pronunci. Impronunciabile. È impronunciabile, però è così, che devi farci. E lei è in attività, anzi è un gruppo, non è una lei, è un gruppo, è Harrison Mills e Clayton Knight, e lavorano diciamo dal 2012. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama Line of Sight. I'm facing back to front, over my shoulder at the sun. And it's an open door, and I've my line of sight once more. E loro producono indie elettronica, electropop, chill wave e future bass. Diciamo che sono dei generi che stanno iniziando adesso a muovere i primi passi fuori dall'underground. Che devi sapere che questa musica che passiamo fa tutta parte dell'underground. Mm-hmm. Sai cos'è? Cosa si intende per underground in generale? Musica underground. Musica underground vuol dire che non è musica che si sente, diciamo, normalmente nelle radio. Mm-hmm. E si spera che magari alcuni di questi brani che scelgo magari diventino dei brani famosi. Io ne sarei almeno orgoglioso. Tu mi ricordi effettivamente qualche brano ci avevo azzeccato ogni tanto, dai. Mm-hmm. Adesso andiamo ad ascoltare un brano vecchio, possiamo dire. In realtà non è che poi sia tanto vecchio, perché comunque è sempre del 2017, che abbiamo già ascoltato a Wolf Trips. E iniziamo a incrementare anche un po' l'andamento della serata, visto che siamo partiti veramente molto molto morbidi. Loro sono gli Ives con 172. L'ho detto giusto? Sì. Ok. I'll be far. Wait until you let me show. Jump in our relation, and I don't mind, but when we touch it's elevation. Up, up, up, up, up. Up, up, up, up, up, up. You speak my lingo, we don't need no translation. I never need a break, cause we feel like vacation. Up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. Can't get enough. sister, where you been? No information. And you come running out, out of patience. Oh, up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. I like the interaction, you got my attention. I'm not in love, but I'm loving the situation. Up, up, up, up, up. If you down, don't dare to stop. Go ahead and feel what you feel. I want you closer to me. So say my name. Wear it out like a sweater that you love, 'cause I can't get enough. Siamo tornati dopo la pubblicità, abbiamo ascoltato un brano nuovo dentro Wolf Trips, si chiama Tove Strike e proviene dalla Svezia, quindi questo nome è un po' particolare. Prima stavamo parlando di te nella pubblicità del tuo blog, raccontaci un attimino meglio, va, che prima abbiamo fatto un po' una cosa veloce. Allora, va. Abbiamo detto di cosa si tratta, siamo giusto? In due, non okay. Ho detto questo. Siamo che è il... io e Emanuele, che anche lui è un ragazzo che studia scienze, perché tutti e due siamo due amanti studiosi della natura, sì, però anche che studiano questa cosa, perché penso che sia alla fine importante studiare e non solo scrivere, insomma. Giusto, poi giusto, dopo giusto. Non si sa bene gli poi, argomenti tra l'altro, potremmo parlare anche della tua passione dei luoghi abbandonati, però vabbè, dai, per adesso no. Ne parliamo magari dopo di questa cosa, visto che mi stai contagiando anche a me. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, un brano che abbiamo già ascoltato all'interno di Wolf Trips. Lei è Fife, un nome un po' particolare, e il brano si chiama Belong. Just to move. detto una fregnaccia, perché in realtà Fife è Paul Dixon e la voce è di Kimbra, che ha fatto numerosi brani molto molto belli, tra cui anche aveva collaborato con Gautier e aveva vinto anche un Grammy Award nel 2013. Il genere del brano è indie alternative pop, non è rock come mi hanno richiesto, perché il programma purtroppo passa musica underground, e vabbè, pazienza, dai, ce ne faremo una ragione. Ma stiamo parlando sempre con te, Sara, della tua seconda passione dei posti abbandonati. Non è, vabbè. Ma ne hai visitato qualcuno? Sì, ancora qualcuno, niente? Però bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Diciamo che adesso c'è sta moda su internet di andare, sì, a fare le foto nei posti abbandonati. Soprattutto tipo ospedali psichiatrici. Cioè, esatto. Questi posti belli allegri qui, no? Molto, diciamo, molto allegri. E tra cui c'era anche qualcuno qua di fianco che voleva andare a Consonno. Consonno, ecco. Consonno, qua è sempre di la persona misteriosa che sì. Anche con la webcam spenta non si vuole far riprendere. Vabbè, andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi abbiamo anche un altro personaggio che è venuto a trovarci questa sera, ma non vi svelo niente. Loro sono i Powers con Man on the Moon. Baby, I'm just a man on the moon. I keep spinning in circles around you, 'cause I've been living where the black meets the blue, and it's all I ever known how to do. Every single day and every night I'm out on my own, all alone. Yeah, nothing ever changes. Always wondering what's below. Wherever I go, I've seen you before. Yeah, I know your type. Try to take them wrong and make them right. Yeah, if you're looking up, better hear me out, 'cause nobody ever pulled me down. So what now? E loro sono i Powers, Mike Del Rio e Chris Tarù. Ti piace questo gruppo? Sì, sì, dai. A me piace veramente molto. E loro, secondo me, hanno le carte in regola per uscire fuori dall'underground e entrare, diciamo, nella sfera del mainstream. Loro vengono da Los Angeles, per esempio. E niente, abbiamo concluso, diciamo, le cose da dire sul tuo blog. O ti viene in mente qualche altra cosa particolare? Beh, l'indirizzo, dici almeno l'indirizzo, dai, sennò... L'indirizzo del blog? Eh sì, certo. Ah, va bene, allora www.biomaterra.wordpress.com. Molto ok, simile. Ok, sì. Vabbè, quindi uno potrebbe cercare benissimo Biomaterra, sì, esatto, su Google, sì, che sì, fai su prima Google. E poi vabbè, ci sono vari social, c'è Twitter, c'è Facebook, c'è giusto, Instagram, giusto. Va bene, va bene, vabbè, comunque resta qua in compagnia, ci ascoltiamo della buona musica, anche perché non puoi tornare a casa, quindi esatto. Devi restare qua per forza. Allora adesso andiamo ad ascoltare i Panama, loro sono una band di Sydney, in attività dal 2010, questo è il brano Hope for Something. E loro sono i Panama con Hope for Something. Un brano molto carino, un brano indie pop elettronico, dai, c'ha qualche suonino elettronico. E stasera abbiamo con noi uno dei due fratelli filippini, lui è Fabio. Quello meno famoso dei due, dovrei dire, no? Vabbè, dai. Beh, oddio, meno famoso, però comunque... cioè, tu ci sei stato già qua in radio, no? Sì, diciamo che sono una vecchia esperienza di qua, un po' come te, diciamo, è un vecchio raduno. Sì, sì, quindi diciamo del brodo riscaldato. È vecchio perché entrando del stasera... Del brodo riscaldato. Bravo, ma entrando stasera ho visto tanti di quei cambiamenti che sono rimasto a bocca aperta, sembra quasi una radioserie rispetto a anni fa. Hai visto. Ci siamo dati da fare, anzi si sono dati da fare, perché anche io l'ho trovata così, devo dirti la verità, non è che... No, ma poi sono rimasto sbalordito anche degli interventi tecnici. T'hai visto, porca miseria. Adesso sì che si suona in sicurezza. Hai visto. Vabbè, sorvoliamo. Lui è un caro, diciamo, come si dice... a parte cara voce, tu è un caro amico di viaggio, ecco, un compagno di viaggio, ecco, quello volevo dire, perché ogni mattina ci dobbiamo sorbire il viaggio in treno. Sì, dal 702 fino a Garibaldi, dove io ti lascio verso Legnano facendo la mia bella pennichella tutte le mattine. Tra l'altro non è questo il programma, però secondo me un programma bellissimo sarebbe... discutere di tutte le cose che vedi sul treno nel viaggio di andata barra di ritorno, di tutte le cose assurde che vedi dei passeggeri e ce senti. N'è tantissime. Che succede sempre di tutto, succede. Non so se ti ricordi, magari qualcuno che ci ascolta, che prende il treno, magari li sente. Quando vai sul treno e senti tutti quelli che parlano velocemente, tipo Carmen Sita, no? Se ti ricordi, che partiva dalle 7 di mattina fino alle 8 a continuare a parlare al telefono. Perché c'erano poi delle figure che erano mitologiche, no? C'era Carmen Sita, c'era l'uomo vestito l'uomo bene. Elegante, l'uomo tutto elegante. Che aveva un odore poco elegante. Ecco. E ce n'erano varie, vabbè. Comunque i peggiori, diciamo un esemplare della categoria, l'abbiamo anche qua, sono gli universitari. Diciamo che sono un popolo abbastanza difficile. Vabbè, continuiamo dopo il nostro giro nel... Con tutto il rispetto, scusate, vorrei che poi dopo ci tempestano di telefonate. Ma che ci tempestassero? Vuoi fare il guerrafondaio? Giustissimo. Va bene, andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Loro sono i Sacr con il brano The Call. Everyone, Questo era un brano nuovo a Wolf Trips, lei è Jerry Falk, viene dalla Norvegia, dall'Oslo. I generi, diciamo che mixa un po' la techno, la deep house, il funk e l'hip hop. Non è male, a me piace parecchio. Chissà cosa ne pensa il nostro amico Fabio, non so se ti piace tanto la musica, però dai, è un po' musica particolare. Essendo poco esperto di questo ramo, non mi posso sbilanciare, però devo dire che è musica molto tranquilla, come ci sta, diceva... Ci sta. Prima tua sorella molto da aperitivo, ormai da aperitivo. Però l'abbiamo superato l'orario, dai. Ormai è d'amaro. Sì, ormai è d'amaro inoltrato. Infatti. E niente, avete trovato qualche informazione allora in base ai nostri viaggi in treno? Sì. Ti è venuto in mente qualcosa? Potremmo fare un libro, no? Tipo Ulisse ha fatto il viaggio e Fabio e Domenico invece fanno i pendolari per Milano. Il pendolarismo è una cosa. Il pendolarismo è una malattia ormai diventata, no? Dal lunedì al venerdì tu sei malato, è il pendolarismo. No, ma peccato, stavo pensando, cioè, se tu quando vai in treno ci sono tanti casi umani, tanti casi particolari. Beh, c'è una tizia che ogni mattina dorme e sembra prende la posa tipo dell'urlo di Munch e si sveglia ovviamente come l'esorcista poi... però dopo no, a me pure mi viene in mente invece quella ragazza che arriva col telefono in mano, che già spacca le balle, che inizia a parlare prima di salire sul treno. A tutto rispetto al suo povero marito, diciamo, io farei un gruppo al sostegno di quel povero marito che si fa spaccare le balle alle 7 di mattina. Ma ha detto che lo fanno beato poi dopo che muore. E alle 8 è ancora lì che gli sta parlando. Cioè, io immagino me, se mi chiamano alle 7 di mattina, li mando proprio a stendere per direttissima. Non ci penso né uno, né due, né tre. C'è gente che vive così, eh. Secondo me, quando scende dal treno, ricomincia. Perché, mi sono dimenticato una cosa, e ricomincia a telefonare. Metti la segreteria. Mamma mia. Per non dire poi dopo degli odori anche. Un melting pot di puzze che fa paura. Cioè, proprio passi dall'Asia Europa, Africa. Beh, ma abbiamo avuto l'Expo, quindi c'è rimasto qualcosa. Ma no? Infatti lo stanno facendo dentro l'S5, l'Expo. Il mitico S5, Gallarate Varese. No, scusa, Varese Milano. Che Varese Milano, non lo offendiamo. Varese Milano. Sì. Vabbè. Lasciamo stare. Dobbiamo dire che adesso è venerdì, per fortuna. Quindi, mo per un paio quindi di giorni. Quindi, domani ci alziamo quando vogliamo. Ecco. Quindi, per un paio di giorni non vediamo il treno, non vediamo le puzze, non vediamo la gente stramba. Vabbè. E adesso andiamo ad ascoltarci un altro brano, poi dopo ci pensiamo. Ma da dove viene questo brano? Allora, questo brano non è del Portogallo, perché uno dice il brano è della band che si chiama Portugal The Man, ma in realtà loro sono del aspetta, rimane ancora un po' indietro? Alaska. Ah, ecco. No, perché c'ho qua. Ma tu passi da posti molto freddi. Il brano di prima di dove era, scusa? Oslo, quindi diciamo che c'è un caldo torrido. Sì. Adesso andiamo in? In Alaska. Cavacca, per fortuna se la felpa stasera. No, però il pezzo prima era di Los Angeles, quindi ah, dai potevi compensa. Chiamarmi un po' prima. Sì, infatti. Vabbè, loro sono Portugal The Man con Feel It Still. On myself, pick out dust them all, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. Sono i Portugal The Man con un genere un po' particolare, perché il genere è groove, che vabbè, è soul e anche indie. Questo indie che ormai ce lo piazzano ovunque, quindi io vabbè. Devo dire che la cantante è molto gnocca. Però la cantante di quella dopo mi sa che tu hai ascoltato. Ah, ecco, dici che ho fatto questa gaffe. No, vabbè, la gaffe no, la ricerca era giusta, solo che vabbè. Loro è un gruppo di maschi, quindi è per quello che ti dico la cantante. Ecco. Allora ragazzi, la prossima canzone sappiate che chi canta è la gran bella Tusa, come si dice dalle nostre parti. Ok. Tra l'altro è il remix di Sheer, che non so se si pronuncia così, ma vabbè. Beh, ma tu fallo, tanto chi può saperlo. No, ma ti voglio chiedere una cosa prima di ascoltare il pezzo dopo. Tu suonavi, giusto? Sì, facevo finta di suonare. Magari anche sui pacchi facevo finta. Ti ho beccato che suonavi. E suonavi nel gruppo, il primo gruppo che hai suonato? Il primo gruppo che ho suonato. Ah no, beh, il primo. Non mi ricordo più il nome. Non era nei Medley. No, quello è stato uno degli ultimi. Il primo c'è quel Madley, CD. Madley, scusami. Il primo c'è quel CD che a me Zaska Punk. Ah. Che avevo 15-16 anni. E l'ultimo, uno degli ultimi che ho suonato, sono stati Madley. I Madley. Vabbè, dai. Che facevi musica comunque un po' più tirata dance, di quella che ascoltiamo stasera. Dance rock. Perché comunque c'è sempre l'anima rock. E ci sta, vabbè, siamo anche su Radio Lupo, quindi va bene. Allora andiamo ad ascoltare Lizzyland con Sweet Melodies. E gli diamo un bacio. I could float on, I'd be fine on my own. no ties to pull me back and forth. But I like the way you move me. I like the way you take me out. I like the way you see me. I don't need my eyes when you're around. Never thought I'd feel this way. I never wanna see you go. Never thought I'd be the first to. No, no, no. My mind so hard to hide from you, but I like the way you move me. I like the way you take me out here in the dark. You fool me, stuck in the days and I can't get out. Never thought I'd feel this way. I never wanna see you go. Never thought I'd be the first to. No, no, no. È un pezzo mieloso questo qua di Lizzy Land, infatti si chiama Sweet Melodies, non apposta, quindi... Te l'ho detto che era gnocca questa qui, che canzone vuoi che ti faceva? Sì, infatti, infatti, vabbè, vabbè. E niente, quindi parlavamo un po' dei tuoi vecchi gruppi, ma tu non avevi suonato anche con tuo fratello in qualche altra sì, sua band? Sì, l'ultimo progetto dei Madley eravamo insieme, sia io che mio fratello. Come al solito lui al basso e io la chitarra. Ma non avevi suonato però nei Topi Morti? No, no, no, nei Topi Morti no, mi sono rifiutato. Ossia i Dead Rats. I famosi Dead Rats. No, però mi ricordo loro erano punk hardcore, i Dead Rats. Noi invece abbiamo iniziato a fare, beh, il classico punk, che poi però ci siamo puntati più sulla dance rock, perché comunque c'era già i primi effetti, sì. Cominciare a fondere la batteria con gli effetti, diciamo che erano le prime sperimentazioni, sì, flanger piuttosto che sulla chitarra. Era una cosa ai tempi un po' più sperimentale, poi dopo ho fatto il botto, sì. Poi è diventato lo standard della gente che suona in generale. Ma funziona sempre così, prima l'underground propone poi gira che è un po' il senso di questo programma. Cascata. Bravissimo, perché questo programma cerca di farvi conoscere prima quello che ascolterete poi. Sì, sembra un po' uno spot da RTL, però vabbè. Mi hanno dato 50 euro per dire questo. Porca miseria, sono anche qui allora quelli di RTL. Non... Speravo di no, in realtà, vabbè. E visto che prima mi hai detto che abbiamo estratto artisti sempre da luoghi freddi, questo qui invece, che è il remixer, il Lennium, viene da San Francisco, quindi non puoi dire che... Sai che San Francisco... è una delle parti del punk rock. Sì, Green è vero, Day, vero. Beh, anche del Offspring, dell'hip-hop, tutti però, da quel ramo lì. Anche dell'hip hop in realtà. Sì, della... però prima c'è stato punk. West Coast. San Francisco sarà West Coast, yes, immagino. All right. E tra l'altro è un remix di un pezzo di un artista che a me piace moltissimo, che si chiama Flume, che lui produce dubstep. Non so se hai mai ascoltato il genere, qualcosa di dubstep. Niente, andiamo ad ascoltarlo. È Flume con Seit e il remix di Illenium. Don't dump me, babe, you make me want. real freak. Voice in my head, in my bed, filled with you instead. Taking your time, work my mind, and I'll play with you. And play pretend it's so true. Follow me down, listen round to the deep dark sound. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. E questo era il brano di Illenium Remix. Intanto devo ringraziare il programma successivo, che è Wolfman Jack, che ci ha dato un po' la, diciamo, il permesso di andare avanti un po' oltre le 9, perché stiamo un po' sforando e sforeremo ancora un po'. Grazie Wolfman Jack. Beh, noi siamo Wolf Trip, Wolfman Jack, sai, è tutto un wolf qua. È tutto... E allora adesso abbiamo ad ascoltare un altro paio di brani, tra cui una novità all'interno di Wolf Trips, che è un altro dei nomi impronunciabili che vado a raccattare io. Indicamelo col cursore. Il brano è questo. Come si pronunci? Non te lo so dire. Kvz. Cazzo. Oh, Kvz. Sembra tipo quando parlano in Puglia. Che cazzo. Vabbè, lo diciamo in italiano. CZBV. Come cacchio si dica? Non ci mette rap. Ci mette rap. Il remixer però è Sen Turk. Che è un... Era così semplice pirla io non averlo capito. No, cioè, voglio dire, si capisce anche la provenienza, no, di uno che si chiama Sen Turk. No, Sen Turk, da dove può venire? Verrà da Oslo anche lui, no? No, da New York. Porca vacca. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo. If I could walk on water, I'd still drown in you. And if I were 10 feet taller, I know I'd get tired of the view from the back of the... I wanna change my name, cut ties with this whole city, cause it's lonely living in them, always living in them. Now I'ma lay it down, lay it down. Yeah, I'm tired of the place I love, and I'm tired of trying to fit in, cause I'm losing my own you. And I ain't giving you up, I'm never giving it up. The sky's lonely, they don't know the sacrifice I'm giving, cause I don't wanna breathe the ghost in me. I wanna be like you. If I could walk on water, I'd still drown in you. And if I could talk to my father, I know we'd be proud of the blessing that grew from the ground up. I found love and the city of fallen angels. Just look at how far we came, though. This is what we always aim for. I'm tired of the place I love, and I'm tired of trying to fit in, cause I'm losing my own you. And I ain't giving you up, I'm never giving it up. Sky's lonely, shit, they don't know the sacrifice I'm giving, cause I don't wanna breathe the ghost in me. I wanna be like you. E loro erano i CVBZ, perché mi hanno un po' diciamo, mi hanno un po' incartato la lingua, mettiamola così. Mi hanno un po' redarguito, perché di qua di fianco mi hanno detto che ho l'Alzheimer. Hai fatto le scuole alte con questo termine, ridicolo. Redarguito. Vabbè. Invece ti lascio lanciare a te il prossimo brano. Allora, il prossimo brano, però, io sono andato a vedere su Wikipedia. Questi ragazzi qua hanno iniziato a ascoltare questo stile a 12 anni. Sì. E leggevo che si sono un po' avvicinati a Fatboy Slim e a Moby. Cioè, quindi sono gente che sa. Ne sa. Cioè, non come me che mi ha invitato qua e io alla cazzo de can non so niente. Allora, loro sono i Sunburn e non vi sto prendendo in giro. at Blue Jay, quindi è una cosa un po' più semplice. Quindi verranno, penso, dalla Turchia. Allora, secondo me sono i cugini dei turchi. Sono, se gli altri erano di Los Angeles, questi sono di San Francisco. No, no, questi sono di Los Angeles invece. E allora vedi la strada a fianco. Vabbè, comunque, loro dobbiamo dire una cosa a questi artisti. Cioè, per noi che siamo davanti a questo cono gelato, no? Già facciamo fatica a parlare perché già di noi siamo dislessici. Mettete qualche vocale tra le consonanti, fateci un fioretto. Sì, ma credo che sia, allora, o tirchieria, perché sai, magari poi pagano le lettere, oppure è una moda del momento che parli tipo SMS, no? Ecco. Quindi le nuove canzone dei Srbrn è Blue Jay. Vabbè, questo brano qua degli SNBRN, come cavolo si chiamano loro, è Blue Jay, si chiama You Got Me ed è cantato con Cara Friu. Abbiamo ascoltato gli SNBRN con You Got Me. Abbiamo un attimo perso Fabio, che è andato a fare le sue cose, mettiamola così. E abbiamo recuperato invece Sara, che era sempre rimasta qua in studio. Sempre qui. E ti è piaciuta un po' la musica di questa sera, questa selezione particolare? Come sempre, poi, dai. E niente, andiamo ad ascoltarci adesso l'ultimo brano. Però prima di presentarlo, volevo dire che questa, guarda, era la decima puntata di Wolf Trips, quindi un piccolo traguardo, dai. Sembrano poche, però alla fine sono 10 venerdì, quindi sì. Tu tra l'altro l'hai ascoltato dalla prima puntata, mi sembra, sì, di aver capito, quindi hai visto tutta l'evoluzione che c'è stata nel programma, e ci sarà ancora, perché come dicevo, il programma comunque si crea man mano, si crea nelle settimane. Adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di oggi. Vuoi provare a lanciarlo tu? Va bene. No, però devo dire la verità, questo non è un titolo particolarmente difficile, dai, mettiamolo così. Ok, allora andiamo ad ascoltarci Big Gigantic, All of Me, insieme a Logic e Roses. Ed è un remix di Naderi. Naderi. Del lupo. E anche stasera siamo arrivati, ahimè, alla fine. Questa puntata pam pam pam scoppiettante, eh? Spumeggiante infatti. E lunga, più del solito. Vabbè, quello non lo diciamo troppo. Facciamo in giro. Niente sanno, niente se sente. Infatti, meglio che non si sanno queste cose. Ho parlato con le brogues. Sarebbe no. Ci hanno autorizzato a fare queste cose. Vabbè, vabbè, abbiamo ascoltato tanta buona musica. Diciamo che è stata una puntata bilanciata tra la serietà sì, e infatti, la demenza mia, no? Infatti, infatti, dicevo che era la 10ª puntata, quindi abbiamo fatto 10 puntate serie. No, quindi, scusa, 9 puntate serie. Quindi potrei... Ah, non solo il numero 10, caro. No, no, sei... 9 e mezzo. No, no, siamo... Sei venuto nella 10ª puntata, quindi abbiamo fatto 9 puntate come serie. Roberto Baggio, che è col sì, numero 10. Sì, gioca. Sì, sì, sì, dai, possiamo dire un po' come Roberto Baggio, dai. Anche se io calcisticamente non so neanche che cacchio vuol dire il numero 10, quindi per me è l'attaccante importante, il fantasista, colui che ti piazza la palla e fa gol. Cioè nella storia calcistica, Totti, Baggio, Falcao, tutti i calciatori che hanno sempre dato quel tocco in più. Ma Falcao è al passato, quindi sì, sì. Non sono di quei tempi, però Johan Cruyff. Vabbè, vabbè. E niente, ci risentiamo settimana prossima, il 19 maggio, e avremo un DJ set live, perché ci sarà... Chi sono? No, suonerà un mio carissimo amico che si chiama DJ Tinto... DJ Tinto? Tinto di blu? Tinto, sì, infatti, beh, ecco. Dopo infatti gli chiederò il perché del nome, ma credo che c'entri proprio per il motivo che dicevi tu. E suonerà con i giradischi, pensa un po'. Allora deve essere uno bravo. Sì, non sì. Come noi che facciamo finta di saper fare qualcosa. Di noi sappiamo far tutto, ma in realtà sappiamo fare un cacchio. E... No, 80 kg, come si dice. Sì, infatti. E suonerà anni 90, tra l'altro. Porca. Quindi anche una bella... ascoltare, cioè, Radio Lupo è il suo fulcro degli anni 90. Sì, cioè, no, però devo dirti la verità, suonerà proprio quegli anni 90. Ah, cioè, non gli anni 90 di Radio Lupo. No, no, lui suonerà proprio gli anni 90. E non so se hai capito, lasciamo pensare a chi ci ascolta. Un po' di suspense, sì, come si suol dire. Quindi, lasciamo intendere a chi intenda. Da che ora a che ora? Ripetici. Sto dicendo, lasciamo intendere a chi intenda. Ma... Senti, io sono la demenza in questo programma, in questo momento, quindi non posso intendere. Lei invece è la cultura, serietà, no? Sì, sì, la serietà. No, niente, settimana prossima ci sentiremo sempre dalle 8 alle 9, quindi niente. Dalle 20 alle 21, perché poi se no capiscono. Vabbè, 8, giusto, 9. Giusto, è vero, è vero. Se no, 8-9 p.m., siete questo l'ho imparato anch'io. Comunque, eh? Prima della puntata prossima ci vedremo ancora sicuramente in quel del treno dalle 7.02. Quindi allora noi possiamo salutare tutti quanti. Sì, sì, possiamo... sì. È finita, niente. Basta. Che per questa sera potete anche stare tranquilli, altre cavolate, almeno mie, non ne sentite più. Un peccato per... quello che diceva l'intelligenza del programma, perché era meglio ascoltarlo un po' di più. Infatti. E niente, va bene. Ringraziamo sempre ancora il programma che ci ha, diciamo, ospitato nel suo spazio orario. E abbiamo ciulato un quarto d'ora. Beh, anche un pochettino di più. Ecco. Va bene, dai. Precisa la ragazza. Spacca il capello proprio. Ci sentiamo settimana prossima. Va bene, bye bye. Ciao. Ciao.